Buonasera. È bello averci, io lo dico sempre, ma è veramente bello averci, è essere una famiglia, essere a casa. Ma subito vogliamo partire con la parola di Dio. Abbiamo cantato più o meno che il mondo è sostenuto dalla sua parola. Lo crediamo veramente? Noi siamo sostenuti dalla sua parola, siamo nutriti, siamo accuditi, siamo coccolati dalla sua parola. Perciò noi dobbiamo fare sempre riferimento a quello che il Signore ha in mente per noi. Andiamo a leggere un passo che, a dir poco, è eccezionale. Io lo chiamo il canto del credente di trionfo. È veramente un trionfo in lui, è veramente qualcosa che ci permette di vivere pienamente il suo cambiamento nel nostro cuore. E leggiamo dalla lettera di Pietro al verso capitolo 3, la prima lettera, capitolo 3, dal verso 8, scusate. E lo leggiamo insieme, lo vediamo insieme. E semmai anche diciamo qualcosa durante, perché è molto bello come passo, è proprio un canto. Infine siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili. Già questa è tutta la parola di Dio. Non rendete male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, poiché a questo siete stati chiamati, affinché, perché a questo siamo stati chiamati, affinché ereditiamo le benedizioni. Ereditiate la benedizione. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal dire il falso. Fugga il male e faccia il bene. Cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Chi vi farà del male se siete zelanti nel bene? Se poi dovreste soffrire per la giustizia, beati voi. Anzi, nella prima lettera, nel capitolo 1, sarà il verso 5-6, Pietro dice ancora diverse, dice: esultate se ancora per un breve periodo, lungo periodo, avete da soffrire le svariate prove. Esultate. E qui dice: beati voi. Non vi sgomenti la paura che incutono e non vi agitate, ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Che cosa abbiamo cantato prima? Signore regna e Lui è Signore della tua vita e di tutto quello che è intorno a te. Continuiamo. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Siate sempre pronti. Lo devi portare sempre con te. Che cosa? La Bibbia. Ma fatelo con mansuetudine e rispetto. E avendo una buona coscienza, affinché quando sparlano di voi, rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Infatti è meglio che soffriate per avere fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Non è il canto dei canti del credente? Realmente, è incredibile, c'è cantici dei cantici, ma questo è il cantico dei cantici miei, lo puoi cantare intonato, stonato, lirico, pop, rock, come lo vuoi cantare, ma questo è il vero canto per ognuno di noi. Però bisogna dire una cosa, poi morale della favola, alla fine che cosa viene fuori? Viene anche fuori il fatto, dice, ma come? Faccio il bene e devo soffrire pure il male? Sai una cosa? Tutto dipende da come viviamo Gesù. Come vivi Gesù? Chi è Gesù nella tua vita? È il risolutore? È il guaritore? È l'ultima spiaggia? Se viviamo Gesù solo in questa maniera, fratelli e sorelle, convertiamoci. Perché in questa maniera, alla fine, noi saremo amareggiati e delusi. Perché non avremo tutte le risposte che noi desideriamo, non avremo tutto quello che noi abbiamo nel cuore per la nostra vita. Ma vivi Gesù al contrario, Lui è il Re e Lui regna. Abbiamo sentito domenica scorsa, Lui regna dentro di noi, intorno a noi, Lui regna, e per non essere deluso allora devi veramente vigilare, non farti ingannare dal diavolo, perché lui è scritto che è bugiardo ed è ingannatore, e lui usa le situazioni che noi viviamo, le nostre situazioni di vita semplici e complicate e difficili, per un solo obiettivo. Il suo obiettivo è quello di separarci da Dio e dagli altri. E perciò usa tutto quello che noi viviamo per farci sentire soli, non compresi, non accettati, non voluti. E poi, quando noi viviamo questo tipo di sentimento dentro di noi, agiamo di conseguenza. Allora scartiamo, allora non accettiamo, allora non amiamo e nemmeno vediamo il Signore, quale lui è, re e regna. Vedete, il tutto è iniziato già con Adamo, queste storie le conosciamo, ma vi ricordate di Adamo quando avevano fatto tutto quello che avevano fatto? Alla fine il Signore si presenta e dice: beh, e che hai fatto? Quale fu la risposta di Adamo? Chi io? E lei, no, anzi, non è nemmeno lei. Sapete come ha risposto? È la donna che tu mi hai messo a fianco. Chi te l'aveva chiesto? Chi te l'aveva detto? Eppure, pochi versi prima, quando ha visto la donna, ha incominciato: carne della mia carne, sangue del mio sangue. Vedete, questo è l'atteggiamento che noi viviamo nelle situazioni. E poi si è creata la separazione. La lontananza, non solo da Dio, ma anche dagli altri. E questo è l'obiettivo del diavolo. Io voglio leggere insieme a voi un altro passo che illustra quello che noi viviamo molte volte nella pratica e che è un consiglio da parte del Signore, della parola di Dio, di stare attenti a queste cose. Leggiamo dalla lettera agli Efesini, sì, alla lettera agli Efesini, perché sopra ci hanno interrogato, è stato un bellissimo momento in cui ci hanno guidato a dire, vivi la parola, dacci un passo, e trasmettilo all'altro, ma non lo so come esattamente ha detto, che tutti quanti ci siamo scordati dove sono scritte, li conosciamo ma non sappiamo dove sono scritte, perciò non azzardiamo, ma sono bei momenti, vivi la parola, trasmetti la parola. Efesini, commentiamo anche questo. Questo dunque io dico e attesto nel Signore. Più certo di così non si può. Non comportatevi più come si comportano i pagani, ascoltate adesso, nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'induramento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Ascoltate adesso. A essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Incredibile anche questo. Vedi quello che viviamo? Intelligenza ottenebrata. Che cosa c'era scritto? Insensibilità, pensieri cambiati, non lo so quelli che erano i termini usati lì, sentimenti perduti, è incredibile ed è proprio quello che noi viviamo quando la solitudine ci prende dentro, non hai più controllo sui tuoi sentimenti e sui tuoi pensieri e allora vanno a ruota libera e ti fanno vivere tutto il male possibile e ti fanno vivere tutte le amarezze che questo mondo ha da offrire e ne ha da offrire. Ma l'ultimo passo che abbiamo letto, che cosa diceva? L'ultimo passo che abbiamo letto diceva che Dio a te, a me, ci ha reinventati, ci ha fatti da capo, ci ha fatto di nuovo, noi siamo stati reinventati. Nel verso 24 era scritto, perciò tu, io, come abbiamo letto anche nel passo di siate sempre pronti, vuol dire proprio questo, tu sei ambasciatore del Signore per quello che tu vivi, anzi no, nemmeno, questo, conosciamo sempre, usiamo questo termine, usiamo un'altra allegoria, un'altra similitudine. Tu sei il fumettista della vita di Dio. Tu illustri nella pratica praticamente che cosa vuol dire vivere Cristo. E questo noi dobbiamo essere, perciò sempre pronti, perciò sempre visti da quello che è la parola di Dio e come la parola di Dio ci vede. Allora, noi non dobbiamo vivere, anche abbiamo letto che il Signore ci ha rinnovati completamente, noi possiamo anche dire a livello personale, individuale, dice sì, è vero, è tutto vero, però però io non mi sento così. Io sento che non mi sento capito da Gesù nei momenti più difficili, non mi sento esaudito, non mi sento risposto, non mi sento che mi sta ascoltando, non mi sento, ma questo non è che noi, gli altri, noi non abbiamo di questi pensieri e sentimenti, è vero? Beh, allora che cosa dobbiamo fare? Quello che dobbiamo fare, molto semplice, l'abbiamo ascoltato domenica scorsa. Mandati un SMS. Va bene? Se non te lo sei già mandato, mandatelo. Gesù regna. Gesù, anzi, aggiunge pure, mi ha reinventato. Mi ha reinventato, io non sono tutto questo. Quando vivi la tristezza e l'angoscia di non vedere le risposte di Dio, mandati un SMS. Funziona. E come che funziona? Mia moglie nell'altra casa, qui non tanto, attaccava i bigliettini dovunque e quando voleva dare i messaggi ai propri figli che vivevano forse cose particolari, metteva un fogliettino con scritto Gesù ti ama, semplicemente, ma diceva tanto ed è vero ed arriva il Signore, ci comprende. In ogni momento e tutto quello che noi viviamo, Lui ci comprende realmente. Anche quando noi non lo sentiamo e non lo avvertiamo, Lui ci comprende. E allora rivedi la parola. Abbiamo detto che siamo fondati, che il mondo è fondato, è sostenuto dalla parola di Dio. Allora usala la parola di Dio. E forse il verso che per eccellenza mostra più di ogni altro che il Signore ci comprende e ci accetta e ci risponde. Sempre, tra parentesi, non sempre la risposta che io voglio, è Romani al capitolo 5, verso 8. In questo è mostrato il grande amore di Dio per noi, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi e ci ha perdonati. Lui ha capito il mio peccato. Lui comprende il mio peccato e non di meno mi accetta e non di meno mi segue e non di meno sta al mio fianco. Piuttosto noi dobbiamo dire se lo ha fatto per il mio peccato, quanto più lo farà con tutte le situazioni che io vivo. Quindi non credere alla bugia del diavolo che vuole farti sentire solo e non compreso. Non credere perché il Signore Gesù è sempre, sempre, sempre al tuo fianco e avanti a te in ogni cosa e per ogni cosa. Ora io voglio, alla mia maniera, lo sapete, come lo vivo io l'Evangelo, mostrarvi quanto è vero e reale che il Signore ci cambia proprio praticamente, standoci a fianco. Io prenderò, come al solito, e voi mi perdonerete, però prenderò tre personaggi della Bibbia, tre storie, e da queste tre storie vediamo come Gesù, sono storie conosciute, fra le sempre conosciute, che noi ci possiamo confrontare continuamente. La prima è Pietro. Pietro, con Pietro ci sono tanti episodi, ma due in maniera particolare. Uno è sul monte della trasfigurazione. Non li andiamo a leggere, li potete poi leggere a casa nell'Evangelo di Matteo. Il verso esatto, andiamo con i versi. Sara? Sì, Matteo 17, va bene, l'ho segnato. Sul monte della trasfigurazione, Gesù, sappiamo, apparve in tutta la sua gloria e tutta tutta la maestà e il regno di Dio fu manifestato in quel momento. E c'era Pietro, Giacomo e Giovanni. Che cosa disse Pietro? Gesù, stiamo così bene qui, siamo qui. E perché dobbiamo andare ad avere a che fare con quelle persone? Stiamoci qui, facciamo tre tende e non ci muoviamo. Quando qualche pizzico di egoismo c'è, quello di qui è bello. Io mi ricordo, è bello vedere. Mia moglie ha subito, un infarto. Allora ha avuto l'intervento angioplastico, eravamo in Svizzera, lì, e poi a un certo punto era attaccato tutto ai tubi e lì hanno visto che stava subendo un infarto. Erano tutti i medici intorno e mia moglie si è svegliata. Tutte non hanno fatto niente, io lo so chi è stato. E che cosa dice mia moglie? E stavo così bene, i prati, i fiori, la luce, vedevo, perché mi avete svegliato? Non avevano fatto niente, lo so io perché l'hanno svegliata, lo so io. Vedete, molte volte tendiamo a voler ripetere e accanirci in quello dove siamo a nostro agio. Dove, e questo non è sempre il meglio, non è sempre il meglio per noi. Cosa fece Gesù? Che cosa disse Gesù? Esatto, proprio questo. Non disse niente. Non disse niente. Quante volte? Non senti risposta da parte del Signore. Quante volte non senti la voce da parte del Signore? E perché Gesù ha compreso Pietro e gli altri, ha compreso il loro desiderio, la loro buona intenzione. Non ha detto niente. Semplicemente sono scesi dal monte e sono andati a vivere quello che dovevano vivere. E il cuore di Pietro è cambiato. L'altro episodio riguardo a Pietro, perché Pietro è il più bello, è quello che ci è più vicino proprio, come dire, proprio praticamente nella vita quotidiana. Gesù, tutto emozionato, tutto pieno di anche forse tristezza, racconta quello che sarebbe accaduto da lì a poco. Che fece Pietro? Lo chiamò da parte, non questo, noi siamo ben educati davanti al Signore, eh? Lo chiamò da parte. E che cosa fece? Che cosa disse? No, è scritto, lo rimproverò. Pietro rimproverò a Gesù. Noi non lo facciamo mai. Noi mica rimproveriamo Gesù, mai. Anche a quattro occhi noi non ci permettiamo di rimproverare Gesù. Lo rimproverò e disse, questo non ti accadrà mai. Ti riconosci? Io mi riconosco tantissimo. I sentimenti che vivi dentro e che c'è tutto quel subbuglio. Che cosa fece? Che cosa disse Gesù? La risposta la sappiamo. Ma questo vuol dire, non lo mandò via. Non lo cancellò da discepolo. Non lo condannò e non lo accusò. Che cosa fece? Cacciò il diavolo. cacciò il diavolo. E allora sappi, che Gesù combatte con te nelle situazioni, per cambiare le tue situazioni dal di dentro. Pietro aveva bisogno probabilmente di vincere la paura di rimanere solo, di non avere più il maestro. Non lo sappiamo quello che è vissuto come sentimento dentro di Pietro, quello di sentirsi abbandonato in un momento. Aveva bisogno di quella guarigione e Gesù combatté con lui e per lui e cacciò il diavolo, E ha combattuto ancora con Pietro. Gesù combatte con noi, per è sempre con noi, anche quando non lo avverti, e anche quando secondo te merita rimproveri, Gesù sta combattendo con te e per te. Gesù è al nostro fianco, ci comprende. Andiamo avanti, qualche altro esempio. Perché sono belli, perché a me, io con questo mi confronto continuamente nelle situazioni. Quando ricevi un messaggio, quando qualcuno ti dice qualcosa, non lo so se accade pure a voi come a me, è fisiologico, è come che, non lo so se si può spiegare, parte da qualche posto e te lo senti tutto qui, ma tutto lì, e poi lo vorresti fare uscire da qui. È lì il Signore. Molte volte è tua moglie che dice calma, aspetta. Molte volte è un fratello, ma quello è l'accompagnamento di Dio al nostro percorso per farci vivere le benedizioni, per farci vivere il meglio. Beh, sappiamo Giacomo e Giovanni, che erano quelli anche più vicini a Gesù. Gesù stava raccontando tutto bello, tutto del regno di Dio, ogni cosa. Che cosa fanno questi, tutti e due? Vanno da lui e che cosa gli chiedono? Non lo sento. Che cozzalone, volevano il posto fisso. Dice, facci sedere, una a destra e una a sinistra. Vi ricordate? Una a destra e una a sinistra. Gesù lo ha fatto? No. Sapete perché non lo ha fatto? Perché quelli avrebbero litigato chi doveva stare a destra e chi doveva stare a sinistra. Non è questa la motivazione. Ma quale fu? Cioè, qui vediamo anche quello che viviamo anche noi. Signore, è proprio a me. Come io, per dire, non lo riusciamo a pronunciare, ma io sono meglio di. Quante volte noi viviamo sempre nel confronto e questo ci permette di vivere bene, perché confrontandoci con un altro tu trovi sempre, qualcuno che è peggio di te. Lo trovi sempre. Quindi io meglio. Erano Giacomo e Giovanni, avevano questo identico atteggiamento. Che fece Gesù? Questo è sempre bello, vedere la reazione pratica di quello che fece Gesù. Lo diciamo diverso, quello che fece Gesù. L'ho imparato dai miei nipotini questa estate. Il tormentone di questa estate qual era? Andiamo a comandare. Beh, Gesù gli ha cantato la canzone Andiamo a comandare. Non ha detto no a loro, no a destra e no a sinistra. Non li ha cacciato, non si è arrabbiato, no. Ha detto andiamo a comandare, però inizia dal servire. Non li ha rifiutati a destra e a sinistra, ma inizia dal servire. È il servire che ci permette di vincere e di vivere le benedizioni del Signore. e partendo dal servire, qualsiasi tipo di servizio, perché poi Gesù ha detto proprio chi vuole essere grande nel regno di Dio, e quindi non ha rifiutato il loro pensiero, la loro aspirazione, il loro desiderio, ha detto sia l'ultimo, nel senso sostieni gli altri, perché pure gli altri si devono sedere a destra e a sinistra, diventa stretto il posto. Perciò, quando noi vediamo muoversi dentro di noi tutto questo, allora dobbiamo comprendere che Gesù ci sta a fianco proprio chiedendoci le cose più umili. È bello anche vedere che poi è scritto, bello, leggetele queste, ma sono stupende, è una cosa incredibile. Andatela a leggere. È scritto, poi quando uscirono fuori, che ti viene anche da ridere, gli apostoli si indignarono. Se noi lo traduciamo, sai quanti calci sotto e quanti pugni dietro alle spalle a quelli là hanno dato? Dir come? Tu vuoi sedere a destra e a sinistra? Cioè, quando, chissà quando gliele hanno detto. E questo accade anche quando noi viviamo questi aspetti, e questo inizia dal servire. Ogni volta vuoi iniziare da qualcosa? Inizia dal servire. Inizia sempre dal servire. Quando qualcuno, il pastore, ci ha fatto un appello, non una mano, due mani dobbiamo alzare. Ma non lo so fare, non so che cosa devo fare. E chi ti ha chiesto che devi saper fare e devi fare qualcosa? Ti è stato detto, anche se non sai fare niente, va bene? Chi è che non sa fare niente? Tutti quanti. Perciò queste sono le vere mani, pastore. È reale, questa è la realtà di Gesù con noi, ma andiamo verso la conclusione e ricordati che quando senti che il Signore ti chiama a servire è perché ti comprende, perché comprende i sentimenti del tuo cuore e vuole farti partire da quello che è lo start, come dire, lo start giusto. L'altro esempio è Tommaso, abbiamo preso proprio elementi proprio che assomigliano di sana pianta a tutti quanti noi. E lo sappiamo il fatto di Tommaso, il dubbio. Se io non ficco il mio dito. E anche qui, cosa fece Gesù? E disse, e lo fa anche con noi, vieni, metti il dito. Io lo vedo quante risposte il Signore dà. Beh, vabbè, lasciamo stare. A fratelli e sorelle che io non l'avrei mai fatto, ma lui lo fa. Vieni, metti il dito. E io mi sono chiesto, Signore, chi ha avuto più servizio? Voi sapete che cosa vuol dire mettere il dito su una ferita? Quando vai dal medico, tu hai accurato bene bene il dito che ti sei fatto male, bello. Vai dal medico, che cosa fa? Vroom, te lo apre e tu ti senti svenire. È più doloroso il dito che il medico mette che non la ferita in sé per sé. Ma secondo voi, secondo noi, chi è che ha sofferto di più quando Tommaso ha messo il dito nel costato di Gesù? Gesù stesso o Tommaso? Io credo che Tommaso ha sentito tanto dolore che la sua vita, da quel momento in poi, si è rivoluzionata. Perché? Perché ha capito il messaggio di Gesù, e quando Gesù è vicino ai nostri dubbi, quando Lui comprende il nostro dubbio e ci segue per farci vedere il diverso, per farci vedere come Lui è, come Lui interviene in ogni situazione. Gesù ti comprende veramente. Ripetitelo continuamente nelle situazioni, non adesso, perché adesso è facile. Ma nelle situazioni, Gesù mi comprende nel mio egoismo, mi comprende nel mio orgoglio, mi comprende nel mio dubbio. Dio fa in modo da farmi vivere sofferenze, non le annulla, perché questo dobbiamo anche comprendere, che Gesù non è il tasto cancella. Gesù riscrive. Gesù reinventa. E noi siamo reinventati da Dio. Quanto siamo cambiati e quanto dobbiamo cambiare se noi rimaniamo attaccati a Gesù. Noi diciamo accetta Gesù. No, segui Gesù. Segui Gesù in tutto quello che è il suo insegnamento, in tutto quelli che sono i suoi consigli. Dio vuole riscriverti. Vedete, leggiamo di nuovo il verso di 9 e 9, ma pure ad andare avanti dice: non rendete male per male o oltraggio per oltraggio, al contrario, benedite. Ed è quello che il Signore fa, poiché a questo, fratelli e sorelle, noi siamo stati chiamati affinché ereditiamo le benedizioni. Perciò afferra Gesù con tutto te stesso e seguilo in tutto quello che Lui ti dice. Ed è probabile, quasi certo, che molte volte, o il più delle volte, Gesù ti dice le cose proprio attraverso il fratello che non ti è tanto simpatico. Ed è lì che il Signore vede quello che vive nel tuo cuore per cambiarlo e trasformarlo. Vogliamo alzarci in piedi? Signore Gesù, vogliamo affidare a te ognuno di noi e grazie che tu continui nella nostra vita. Amen.